Demetrio seppe che era morto Nicanore ed era stato distrutto il suo esercito in combattimento e decise di mandare di nuovo Bacchide e Alcimo in Giudea e l'ala destra dell'esercito con loro. Seguirono la via di Galgala e si accamparono sopra Mesalot, in Arbela, la occuparono prima e vi fecero morire molti uomini. Nel primo mese dell'anno 152 posero il campo contro Gerusalemme, poi lo tolsero e si portarono a Berea con 20.000 uomini e 2.000 cavalli. Giuda era accampato in Elasa con 3.000 uomini scelti. Quando videro la massa di un esercito così numeroso, ne rimasero sgomentati e molti si dileguarono dal campo e non rimasero che 800 uomini. Giuda vide che il suo esercito si disgregava mentre la battaglia incalzava. Si sentì venire meno al cuore perché non aveva possibilità di radunare i suoi e tutto affranto disse ai superstiti: «Alziamoci e andiamo contro i nostri avversari, se mai possiamo debellarli». Ma lo dissuadevano dicendo: «Non riusciremo ora, se non a mettere in salvo noi stessi, ma torneremo poi con i nostri fratelli e combatteremo. Da soli siamo troppo pochi». Giuda disse: «Non sia mai che facciamo una cosa simile, fuggire da loro. Se è giunta la nostra ora, moriamo da eroi per i nostri fratelli e non lasciamo ombra alla nostra gloria». L'esercito nemico uscì dal campo schierandosi contro i giudei. La cavalleria si divise in due ali e i frombolieri e gli arcieri precedevano lo schieramento. I più validi erano in prima fila e Bacchide stava all'ala destra. La falange si mosse, avanzando ai due lati e al suono delle trombe. Anche dalla parte di Giuda si diede fiato alle trombe. La terra fu scossa dal fragore degli eserciti. Si scatenò la battaglia, che durò dal mattino fino a sera. Giuda notò che Bacchide e la parte più forte dell'esercito era a destra. Allora si unirono a lui tutti i più coraggiosi e fu travolta l'ala destra dal loro urto. Ed egli li inseguì fino al monte di Asdod. Ma quelli dell'ala sinistra, vedendo che era stata sconfitta l'ala destra, si volsero sugli stessi passi di Giuda e dei suoi uomini, assalendoli alle spalle. Così si accese la battaglia e caddero feriti a morte molti da una parte e dall'altra. Cadde anche Giuda e gli altri fuggirono. Gionata e Simone raccolsero Giuda, loro fratello, e lo seppellirono nel sepolcro dei suoi padri in Modin. Tutto Israele lo pianse, furono in gran lutto e fecero lamenti per molti giorni, esclamando: «Come è caduto l'eroe che salvava Israele!» Il resto delle imprese di Giuda e delle sue battaglie, degli eroismi di cui diede prova e dei suoi titoli di gloria non è stato scritto, perché troppo grande era il loro numero. Dopo la morte di Giuda riapparvero i rinnegati in tutto il territorio di Israele e risorsero tutti gli operatori di iniquità. In quei giorni sopravvenne una terribile carestia e la terra stessa congiurò in loro favore. Bacchide scelse gli uomini più empi e li fece i padroni della regione. Quelli si diedero a ricercare e a braccare gli amici di Giuda e li condussero da Bacchide, che si vendicava di loro e li scherniva. Ci fu grande tribolazione in Israele, come non si verificava da quando tra loro erano scomparsi i profeti. Allora tutti gli amici di Giuda si radunarono e dissero a Gionata: «Da quando è morto tuo fratello Giuda, non c'è uomo simile a lui per condurre l'azione contro i nemici e Bacchide e gli avversari della nostra nazione. Ora noi ti eleggiamo, oggi nostro capo e condottiero delle nostre battaglie». Gionata assunse il comando in quella occasione e prese il posto di Giuda, suo fratello. Appena Bacchide ne ebbe notizia, cercò di ucciderlo. Furono informati anche Gionata e Simone, suo fratello, e tutti i loro seguaci, ed essi fuggirono nel deserto di Tekoa e si accamparono presso la cisterna di Asfar. Bacchide lo seppe in giorno di sabato e si portò con tutto il suo esercito al di là del Giordano. Jonathan inviò suo fratello capo della turba a chiedere ai nabatei, suoi amici, di custodire presso di sé i loro equipaggiamenti che erano abbondanti. Ma i figli di Jambri, che abitavano in Madaba, fecero una razzia e catturarono Giovanni con tutte le cose che aveva e portarono via tutto. Dopo questo fatto riferirono a Jonathan e a Simone, suo fratello. I figli di Jambri hanno una grande festa di nozze e conducono a Nadabat la sposa, figlia di uno dei grandi magnati di Canaan, con corteo solenne. Si ricordarono allora del sangue del loro fratello Giovanni, perciò si mossero e si appostarono in un antro del monte. Ed ecco, alzando gli occhi, videro un corteo numeroso e festante e lo sposo con gli amici e fratelli che avanzava incontro al corteo con tamburi e strumenti musicali e grande apparato. Balzando dal loro appostamento, li trucidarono. Molti caddero colpiti a morte, mentre gli altri ripararono sul monte ed essi presero le loro spoglie. Le nozze furono mutate in lutto e i suoni delle loro musiche in lamento. Così vendicarono il sangue del loro fratello e ritornarono nelle paludi del Giordano. Bacchide ne ebbe notizia e venne in giorno di sabato fin sulle sponde del Giordano con numeroso esercito. Jonathan disse ai suoi: «Alziamoci e combattiamo per la nostra vita, perché oggi non è come gli altri giorni. Ecco, abbiamo i nemici di fronte a noi e alle spalle, dall'uno e dall'altro lato, l'acqua del Giordano o la palude o la boscaglia. Non c'è possibilità di sfuggire. Alzate ora le vostre grida al cielo, perché possiate scampare dalla mano dei vostri nemici». E si attaccò battaglia. Jonathan stese la mano per colpire Bacchide, ma questi lo scansò e si tirò indietro. Allora Jonathan e i suoi uomini si gettarono nel Giordano e raggiunsero a nuoto l'altra sponda. Gli altri non passarono il Giordano per inseguirli. Dalla parte di Bacchide caddero in quella giornata circa 2000 uomini. Bacchide tornò in Gerusalemme ed edificò fortezze in tutta la Giudea, le fortezze di Gerico, Emmaus, Bet Coron, Betel, Tamnata, Piraton e Tefon, con alte mura, porte e sbarre, e vi pose un presidio per molestare Israele. Fortificò anche la città di Bet Zur e Gezer e Lacra, e vi stabilì milizie e vettovaglie. Prese come ostaggi i figli dei capi della regione e li pose come prigionieri nell'Acra a Gerusalemme. Nell'anno 153, nel secondo mese, Alcimo ordinò di demolire il muro del cortile interno del santuario. Così demoliva l'opera dei profeti. Si incominciò dunque a demolire, ma in quel tempo Alcimo ebbe un colpo e fu interrotta la sua opera. La sua bocca rimase impedita e paralizzata e non poteva più parlare né dare disposizioni per la sua casa. Alcimo morì in quel tempo con grande spasimo. Bacchide, vedendo che Alcimo era morto, se ne tornò presso il re e la Giudea rimase tranquilla per 2 anni. Tutti gli empi tennero questo consiglio: «Ecco, Jonathan e i suoi vivono tranquilli e sicuri. Noi dunque faremo venire Bacchide e li catturerà tutti in una sola notte». Andarono e tennero consiglio da lui. Egli si mosse per venire con un esercito numeroso e mandò di nascosto lettere a tutti i suoi fautori nella Giudea perché si impadronissero di Jonathan e dei suoi. Ma non riuscirono, perché era stata svelata la loro trama. Anzi, questi presero una 50ina di uomini tra i promotori di tale iniquità nel paese e li misero a morte. Poi Jonathan e Simone con i loro uomini si recarono fuori del paese a Bet Basi nel deserto e ricostruirono le sue rovine e la fortificarono. Lo seppe Bacchide e radunò la sua gente e avvisò quelli della Giudea. Andò ad accamparsi presso Bet Basi e la attaccò per molti giorni, allestendo anche macchine. Jonatà lasciò Simone, suo fratello, nella città e uscì nella regione, percorrendola con un drappello di armati. Batté Odomera con i suoi fratelli e i figli di Fasiron nel loro attendamento. Cominciarono così a battersi e aumentarono di forze. Simone, a sua volta, e i suoi fecero una sortita dalla città e incendiarono le macchine. Poi attaccarono Bacchide, che fu sconfitto, e lo gettarono in grande disappunto perché il suo piano e la sua impresa erano andati a vuoto. Si rivolse con rabbia contro quei rinnegati che l'avevano consigliato di venire nel paese. Jonatà lo seppe e gli mandò messaggeri per concludere la pace con lui e scambiare i prigionieri. Quegli accettò e fece secondo le sue proposte. Egli giurò che non avrebbe recato alcun male per il resto dei suoi giorni. Poi gli restituì i prigionieri che prima aveva catturati nella Giudea e, messosi sulla via del ritorno, se ne andò nel suo paese e non volle più tornare nel loro territorio. Così si riposò la spada in Israele. Jonatà risiedeva in Michmas e incominciò a governare il popolo e a far scomparire gli empi da Israele.